America 24 di Mario Platero. Buongiorno e benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Oggi molta attesa per l'audizione del governatore della Fed, Ben Bernanke, che parlerà fra poche ore in congresso. Insomma, le tensioni economiche restano, però la sua operazione Twist, che è partita ieri, ha funzionato. I rendimenti dei titoli a lunga, i trentennali del tesoro americano, sono caduti dal 3,01% di venerdì al 2,84% di ieri, e anche per questo la borsa americana ieri è stata più tranquilla, per esempio, di quella europea. Però le tensioni di fondo restano, la preoccupazione che la crisi possa estendersi all'Oriente, e la novità di questi giorni, di queste ore, è una preoccupazione piuttosto forte. Si aggiunga a questo che ci sono misure commerciali contro la Cina, sono state approvate ieri in prima battuta dal Senato americano, poi andranno alla Camera, ma sono misure che disturbano, perché capitano in un momento in cui tutto si dovrebbe fare tranne che chiudere o dare messaggi di chiusura ai commerci internazionali. In Europa, invece, di nuovo incertezza sulla Grecia, la volatilità resta. I primi incontri di ieri dei ministri finanziari a Lussemburgo sono stati, diciamo, di ordinaria amministrazione, quando la situazione richiede decisioni e atteggiamenti straordinari, non ordinari. L'economista Rubini, ad esempio, ha chiesto un piano immediato. Ieri ha parlato dal Dubai, ha detto che l'Europa deve presentarsi con un bazooka per proteggere il vecchio continente da attacchi sul debito per paesi potenzialmente illiquidi ma solventi, tra cui ovviamente c'è l'Italia. E c'è da chiedersi: ma com'è possibile che i nostri leader europei, non soltanto italiani, non si accorgano che le cose si devono fare subito, che fra 3 mesi potrebbe essere troppo tardi? Butch Cassidy himself. We are not gonna die, old man. Il film Blackthorn con Sam Shepard, un film di un certo interesse. Perché ve ne parlo? Come è collegato questo film al discorso che facevamo prima? La cosa che mi ha colpito di più in questo film che ho visto la settimana scorsa è che ci porta una morale politica, e cioè che le cose si fanno soltanto quando si sentono fino in fondo. Questo succede nelle rivolte, nelle rivendicazioni, nella ricerca di giustizia, o quando si deve cambiare davvero qualche cosa. Ecco, in questo film il messaggio è che quando c'è questa passione non ci si ferma neanche davanti alla morte. Dunque è un messaggio molto forte per noi in questo momento in cui ci vediamo così privati di quella leadership che dovrebbe costringerci a fare delle cose, che dovrebbe condurci in territorio inesplorato, che dovrebbe in qualche modo spingere noi stessi a cercare un cambiamento. Give your money back, but it's hidden. That's why they're after me. Vi dicevo, la morale è molto chiara. Forse è curioso che la senta di più un italiano, perché se tutti sono in mezzo ai pasticci, noi poi lo siamo di più. Ci lamentiamo sempre del nostro paese, della nostra classe politica, poi alla fine facciamo poco o nulla. E perché? Ecco, questa è una domanda di fondo, se dobbiamo riflettere su noi stessi. Forse perché non abbiamo la forza della disperazione. Ecco, in questo film si vede costante questa forza della disperazione che trascina alla fine poi i protagonisti verso il successo. Di certo, come dice uno dei comandanti nel film, chi non risica fino in fondo non rosica. There's only two moments in a man's life. The one's when he leaves home, and the other one's when he returns. Dunque veniamo alla storia, alla trama di questo western che ha questi risvolti di messaggio politico, di passione, di incoraggiamento all'azione, che secondo me si collegano molto bene con le sfide del nostro tempo. La storia è semplice: Butch Cassidy e Sundance Kid, li conoscerete, grandi banditi americani. Si pensava che fossero stati uccisi intorno al 1908 proprio in Bolivia, dove erano scappati. Niente affatto, il film ci dice che Butch, che poi è interpretato da Sam Shepard, è sopravvissuto. Vive ancora in Bolivia, grosso modo nel 1926. Poi le avventure di un western classico e senza tempo. Are you going to kill me? We're in the middle of nowhere. My entire future ran off of that horse. Subito dopo la preview ho visto Sam Shepard, l'ho incontrato, abbiamo chiacchierato un po' del film e anche un po' dei messaggi politici. Gli chiedo come mai l'America si sta un po' distaccando da quelle che erano le sue tradizioni. Perché c'è questo senso di malessere? We've always been paranoid. We're paranoid of everything. We're paranoid of ourselves. Ecco, la risposta di Shepard è che l'America è in paranoia per tutto, in paranoia per la stessa vita del giorno per giorno, è in paranoia perché i cinesi hanno mandato la prima stazione spaziale in orbita, magari pensano che sia un attacco all'America. E parlando proprio della crisi economica, beh, gli dico che insomma questa crisi economica non è così poi da paranoici, perché è una crisi che ha avuto dei risvolti molto pesanti sul mercato. I disoccupati, 7 milioni di disoccupati americani, non sono paranoici, non hanno il posto di lavoro, e quindi gli chiedo come mai alla fine c'è questa paranoia e l'America ha paura. Because of its, essentially because of its isolation, ideological, political, religious, you name it. It has to do with isolation. La risposta è chiara, continua a dire Sam Shepard, perché l'America è isolata, sente un forte isolamento, si sente isolata, si sente da soli, siamo isolati psicologicamente, ideologicamente, dal punto di vista politico, da quello religioso. Io credo però che questa ansia, questa paura americana sia più determinata dall'idea di perdere questo American exceptionalism, questa straordinaria cultura, tradizione di libertà, di possibilità, di nuova frontiera, di sogno americano. È molto diverso dalla paura che abbiamo noi, che è la paura delle invasioni. Per questo l'America si agita, reagisce ed è talmente attaccata al rischio, al pericolo di perdere questo suo eccezionalismo che poi si muove in avanti. Noi in realtà restiamo fermi. Ecco, per questo il film, devo dire, alla fine mi ha dato una certa ansia. Chiedo alla fine a Shepard se è stato in Italia, se è stato a visitare il nostro paese. Mi dice sì, in effetti sono stato in Sicilia, e gli domando ma cosa ti è piaciuto dell'Italia e della Sicilia? E una gran risata, dice beh, proprio il grande isolamento, la Sicilia è un'isola. I was in Sicily, yes, I loved it. What did you love about Sicily? It's isolation. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Esce oggi, 4 ottobre, The Lost Notebooks of Hank Williams, una raccolta di brani inediti che il cantante country, scomparso ad appena 29 anni, pensate, aveva lasciato in una valigetta sul sedile posteriore della sua Cadillac nel 1953. Fantastica la musica country, e dunque la dedichiamo a Hank Williams per questa primizia di quasi 60 anni fa. I'll never get out of this world alive. If I jumped in the river I would probably drown. No matter how I struggle and strive, I'll never get out of this world alive. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi ha presentato America 24.